vuoi un po' bella. Guardarti accende un desiderio incontenibile, come le gocce sul bicchiere quando siete male. Io non so quanto giusto sia avvicinarmi e farti mia e poi andare in birreria. Io non ti porto mai a fare passeggiate, non ho ricordo anniversari e date, dormo a metà le mie giornate. La vita quotidiana la improvviso sulla scena, mi annoio a morte se mi porti con i tuoi fuori per cena. Non mi emoziono sugli yacht, io colleziono di Landoghe. Mi piace farlo nei posti più disparati e stare fumati a guardare cartoni animati, fermarsi in un motel sulla via per la festa e risparmarmi di sangria, mo' di gel sulla cresta. Raccontarti ogni mio vizio segreto, poi voglio portarti dove non esiste divieto, e le emozioni che senti creano vortici immensi e l'aspirare vale dei sensi. Se pensi di prendermi così e ti porterò a ballare dove potrai gridare, saremo io e te. Amiche, dalla chiappa stretta e la gris sulla borsetta, e chi comunque vive in linea retta e sa sempre quello che lo aspetta. Io invece adoro stare al centro del ciclone, minuto di immaginazione, musica alta colazione, come una spirale di colore che girando mi protegge, vivendo un po' fuori dal grece, a volte quasi della legge. Forse a tua mamma piacerà, ma tuo papà non capirà che non prometto che ti sposo un sicuro futuro, ma ho letto senza riposo mattina muso duro, né villetta né camino, ma rimani senza qui vicino. Metto fuoco al mondo con un accendino. Prendimi così e ti porterò a ballare dove potrai gridare, saremo io e te nella spirale ovale. Lì ti potrò mostrare cosa vuol dire osare. Vorrei dirlo ma la bocca si asciuga adesso che sei tutta nuda, ma i tuoi capelli sono più belli se li sciogli ed il vestito se lo togli. La parte dei bacini dei ti amo la saltiamo e facciamo saltare i bulloni a questo divano, bruciamo come un vulcano le lingue fiumi in piena, sentirmi vivo con le tue unghie sulla schiena. Entrami nella pelle e non si cade, ti porto tra le stelle la mia lingua un'astronave, la spirale ovale gira più forte quando griderai.